Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buon sabato e anche aggiungo buon estate. Anche nei caldi sabati di agosto noi vi terremo compagnia con riflessioni, idee, approfondimenti, confronti sul nostro ruolo di genitori. E come tutti sabato c'è solamente qui un pochino più abbronzato e rilassato del solito il mio inquilino Alberto Pellai. Alberto, ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, buone vacanze a tutti. Io direi di partire subito con il nostro sommario e poi ci ragioniamo. Quando al mare il corpo diventa un problema. Ho 18 anni e voglio farmi una plastica. Un progetto per l'estate, una gita coi figli per educarli alla bellezza. E allora Alberto, partiamo da un problema che ci viene raccontato questa volta da una mamma che ci ha mandato una mail. Sentiamola. Siamo in spiaggia e mia figlia sta letteralmente impazzendo perché non sopporta di essere vista in costume. Non ha alcun problema di linea e non ha nemmeno problemi con il cibo. Ma da quando siamo al mare, la vedo costantemente controllarsi davanti allo specchio. Usa reparei, teli che lega intorno alla vita, indossare magliette che le arrivano alle ginocchia. Insomma, la vedo fare cose che non aveva mai fatto prima. Inutile provare a parlarci insieme, si arrabbia subito e se ne va. Mi devo preoccupare? C'è qualcosa da fare come mamma nel silenzio più totale per aiutarla a capire che ha un bellissimo corpo e che non si deve preoccupare di coprirlo in modo così ossessivo quando se ne va in spiaggia? Allora Alberto, per aiutare questa mamma abbiamo in linea con noi un'esperta, la professoressa Elena Riva, che saluto. Buongiorno professoressa, benvenuta. Buongiorno. Psicologa e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica che ha appena pubblicato per Cortina Editore il libro Adolescenza e anoressia, corpo, genere e soggetto. Professoressa Riva, allora questa ragazza si camuffa in spiaggia, si copre, la mamma è preoccupata, ma come sa bene anche lei, parlare con le ragazzine quando loro non vogliono e diventa veramente un'impresa molto difficile. Si rischia di sbagliare, si rischia di far scoppiare delle liti che non portano da nessuna parte. Giustamente la mamma nella sua lettera dice: cosa fare come mamma nel silenzio più totale per aiutare a far capire alla ragazza che non ha nulla da coprire, insomma aiutarla a vivere bene il suo corpo, che sappiamo nell'adolescenza si trasforma, diventa donna. Sì, in effetti il corpo e la sua immagine sono un problema in adolescenza, soprattutto per le femmine, per le ragazze. In particolare l'esibizione del corpo e il confronto con gli altri corpi che avviene d'estate sulle spiagge per qualche adolescente è un'occasione in cui sono costrette a esporre allo sguardo degli altri un corpo che loro considerano molto sbagliato, e questo alimenta l'ansia, la vergogna, che è il sentimento che questa generazione di adolescenti sembra temere di più. Infatti è da sempre, non riguarda gli adolescenti attuali, il fatto di non sentirsi a proprio agio con un corpo che si è trasformato, no? Che i cambiamenti della pubertà rendono diversi, gli adolescenti sono spesso goffi, impacciati, no? Hanno un corpo diverso che sembra loro non normale, ecco, e si confrontano per questo in un modo un po' ossessivo col corpo degli altri. Quello che però caratterizza questa generazione invece di adolescenti è un'ansia di perfezione del tutto nuova che è più forte in questi ragazzi che sono stati investiti di desideri e di aspettative da sempre e che temono di deludere e di deludersi. Tante volte per le ragazze si vedono anche riflesse negli occhi del loro papà, che tante volte riesce a dargli quella sicurezza che magari noi mamme non riusciamo a dare, no? Perché funziona anche un po' così. Un complimento fatto da una mamma o da un papà per una ragazza adolescente può avere significati diversi. Penso che lo sguardo del papà sia cruciale, fondamentale, importantissimo fin dalla prima infanzia, quindi secondo me aiuta proprio la figlia, futura adolescente, a depositare dentro di sé un'immagine corporea che ritiene poi sufficientemente adeguata, positiva, con cui non dover combattere in modo così ossessivo. Però rilancerei proprio la tua osservazione molto acuta alla professoressa, cioè noi in questa lettera abbiamo trovato una mamma che si dichiara disarmata, dice: nel silenzio più totale devo inventarmi qualcosa da fare, non so cosa sia questo qualcosa, il padre potrebbe avere un ruolo, oppure provi a dare qualche consiglio ai molti genitori che probabilmente al mare in questo momento stanno affrontando proprio questo genere di sfida educativa. Iniziamo, professoressa Riva, dalle cose da non fare, facciamo una sorta di scheda, eh? Sì, ma non è facile, nel senso che appunto è molto difficile parlare con un adolescente scontento del proprio corpo, come dice questa mamma in questa lettera, no? Perché si rischia da una parte di confermare la sua aspettativa di poter trasformare il corpo e con esso appunto il senso del proprio valore, oppure all'opposto di banalizzarne le tristezze e i vissuti di inadeguatezza, che invece sono autentici e profondi, anche se ovviamente non è colpa del corpo. Corpo, no? E dar la colpa al corpo e attaccare il corpo per sentirsi meglio è proprio una delle strategie a rischio dell'adolescenza. Quindi direi innanzitutto queste due parti sono, questi due rischi opposti sono da evitare. Da una parte quello di colludere, no? Per timore di deluderla, di farla star male, di colludere con l'idea che il corpo si possa trasformare in modo onnipotente, no? Appunto viviamo in una cultura sociale in cui questa cosa è molto diffusa, no? Sì. Tutto il corpo diventa qualcosa che si può trasformare, rendere uguale diverso. I propri modelli, esiste, cioè tutte con le tecniche della chirurgia estetica si può avere un corpo diverso. Allora questo è un fenomeno che sta diventando, che si diffonde sempre di più e diventa sempre più allarmante, come sempre veniamo preceduti dagli Stati Uniti in questa nei fenomeni sociali è sempre più diffuso che ragazzine richiedano operazioni di chirurgia estetica come regalo per il 18° compleanno. Ovviamente sotto c'è l'illusione che un corpo diverso possa far sentire diverso. Ecco, quindi innanzitutto credo che bisogna stare molto attenti a non colludere con questa idea che di poter rendere il corpo diverso. Sì. D'altra parte c'è anche il rischio negli adulti di banalizzarle, no? Di trattare le figlie da veline che si occupano soltanto dell'aspetto estetico, che considerare quello che è un sentimento di disagio rispetto al sé qualcosa che invece riguarda il voler essere bella a tutti i costi in senso banale, in senso superficiale, insomma. Ecco, la svalutazione credo che sia la cosa che più temono gli adolescenti, no? Quello di sentirsi guardati come sbagliati e deludenti. Quindi se dovessi dire le cose da non fare sono queste. Mentre, in una direzione, e so che è difficile, ma almeno una cosa da fare per rompere un po' il ghiaccio, per avvicinarsi alla ragazza e per vivere insieme a lei questo problema, perché per alcuni ragazzi è davvero un problema, poi si supera, ma magari se si hanno accanto dei genitori comprensivi e che sanno muoversi in modo adeguato si supera meglio. Professoressa. Ma io credo che innanzitutto per poter dire qualcosa sia importante vedere belli i propri figli. Il problema è che a volte sono addirittura i genitori ad esigere un figlio perfetto, in tanti da altri punti di vista, magari perfetto sul piano scolastico, perfetto nei risultati sportivi, ma questa ansia di essere sbagliati e deludenti degli adolescenti nasce spesso dal desiderio dei genitori di avere un figlio appunto perfetto. Quindi credo che se riusciamo a guardare le cose belle dei nostri figli, anche loro riescono molto meglio a guardarsi belli. Certo che è una cosa che deve iniziare da lontano, sì, come no? Dall'infanzia, diceva Alberto. Quando lo sguardo dei genitori appunto è lo sguardo che conta di più, poi diventano importanti gli sguardi degli amici, dei coetanei, così, però appunto riuscire a guardare, per esempio sottolineare quanto è importante l'aspetto, come dire, l'aspetto di una bellezza che è la tua, no? Che non è essere tutto uguale alla Barbie, tutto uguale al campione sportivo, no? Cioè, quindi valorizzare quegli aspetti unici e speciali che rendono una persona un individuo, che è bello perché è un individuo, non perché è uguale a una qualche modella, una qualche... Professoressa Riva, io la ringrazio, ci ha aiutato, Alberto. Sicuramente questa è una strada percorribile, anche se è un po' faticosa. Bisogna iniziare da piccoli a guardare i nostri figli non bisogna spaventarsi perché per fortuna cambiano. Professoressa Riva, grazie, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi torniamo subito dopo insieme e vi aspettiamo. Questa casa non è un albergo. E siamo tornati insieme, abbiamo appena affrontato un caso un po' difficile, però frequente, la ragazzina che in spiaggia ha qualche difficoltà a mostrarsi in costume. La professoressa Riva, Alberto, ha sottolineato un aspetto: sempre più ragazze giovani vogliono sottoporsi ad interventi di chirurgia plastica per correggere, modificare alcuni difetti, ed è questo, appunto, di questo parleremo nel corso della nostra trasmissione. Ma intanto io so che tu hai lavorato, e te l'ho chiesto espressamente, per selezionare alcuni libri, dei consigli di lettura mirati ai temi che stiamo trattando oggi. Certo, portate sotto l'ombrellone un buon libro, vi potrebbe aiutare proprio a migliorare la relazione genitori-figli. E in realtà sul tema di oggi vi consiglio, se avete bambine in età di scuola primaria, scuola elementare, potreste leggere insieme una bellissima favola di Fulvia degli Innocenti pubblicata dal Gioco di Leggere Edizioni. Si chiama I Capricci di Rosabella ed è la storia di una principessa che non vuole diventare regina. Da grande vorrà fare la principessa del giardino, la giardiniera, ed è un bellissimo libro sull'accettazione di sé secondo le proprie aspirazioni, come si è, non secondo modelli precostituiti. Per gli adolescenti un classico, è diventato un classico delle teens, Elogio alla bruttezza di Loredana Frescura, Fanucci Editore. Per voi mamme un libro molto molto interessante, Mamma dimmi che sono bella, sottotitolo Come aiutare le vostre figlie ad amare se stesse e il loro corpo, di Stephanie Pearson, attualmente pubblicato da Thea. Quindi letture per ogni età, per ogni fascia d'età. Vogliamo ripetere velocemente i titoli, Alberto, che non scappino? Per le più piccole, I Capricci di Rosabella, di Fulvia degli Innocenti, il Gioco di Leggere Edizioni. Per le adolescenti, un bel regalo che potete fare loro, Elogio alla bruttezza di Loredana Frescura, Fanucci Editore. Per i genitori, per le mamme in particolare, Mamma dimmi che sono bella, di Stephanie Pearson, Thea Edizioni. Alberto, quindi adesso direi che possiamo riascoltare alcuni estratti di una trasmissione che è molto, cioè è quasi un proseguimento della lettera della nostra ascoltatrice. Sì, era una trasmissione di maggio dove abbiamo approfondito proprio il tema della richiesta di chirurgia plastica ed estetica da parte delle giovanissime, partendo da una lettera che ci è arrivata in redazione. Da un anno in casa nostra si sta combattendo una strana battaglia. Mia figlia Elena, di 16 anni, è realmente angosciata dal suo seno piatto e chiede di potersi sottoporre ad un intervento di mastoplastica. All'inizio io e mio marito l'abbiamo messa sul ridere, poi abbiamo visto che faceva sul serio. Pianti, musi lunghi, scenate, e ci siamo convinti a farla parlare con una psicologa che dopo 6 mesi ha gettato la spugna. Così ora abbiamo una figlia che rivendica il diritto all'intervento, perché anche la psicologa in 6 mesi non ha trovato una buona ragione per non farlo, così almeno ci urla in faccia Elena. Io e mio marito non ne possiamo più. Tutta l'adolescenza di nostra figlia sembra attraversata solo da questo desiderio, tanto che ci sembra molto più facile dirle sì, piuttosto che resistere ad oltranza. Come genitori, regalare questo intervento a nostra figlia ci sembra un fallimento bello e buono, ma credeteci, noi non ne possiamo proprio più. C'è qualche consiglio che possa aiutarci? Cos'altro possiamo fare per aiutare Elena ad accettarsi così com'è? Alberto, accettarsi così come siamo, sembra più difficile per tutte noi che apparteniamo al genere femminile, sembra sempre impresa più ardua per le giovanissime. Ma le giovanissime... Te ne stai rendendo conto? Sì, credo che insomma da anni chi lavora con gli adolescenti si rende conto che gran parte della loro fatica di crescere se la giocano proprio cominciando una battaglia con il loro corpo, e ci sono moltissime suggestioni, moltissimi stimoli proprio nel loro ambiente di vita che provengono dalla loro cultura di riferimento, dai personaggi che amano di più, hanno molti role model che li stimolano. Proprio 2 anni fa una Miss Italia bellissima ha raccontato in pubblico che si era fatta rifare il seno dopo essere diventata Miss perché non si piaceva così com'era. Quindi il problema è grosso. Allora cercheremo di approfondire questo tema insieme a molti ospiti, ve li presento. Abbiamo in linea con noi la dottoressa Rossella Ghigi, che è docente all'Università di Bologna e autrice di un libro molto interessante che ho letto con grande piacere e si intitola Per piacere, storia culturale della chirurgia estetica, edito dal Mulino. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo qua in studio con noi una collega, è Cristina Tagliabue. Ciao Cristina. Ciao. Cristina ha frugato nelle storie di adolescenti comuni raccogliendo testimonianze dirette che poi ha utilizzato per un libro che si intitola Appena ho 18 anni mi rifaccio, pubblicato da Bompiani. Suona quasi come una minaccia. Vero? Sì, no, in effetti il titolo del libro l'abbiamo pensato, abbiamo pensato diversi titoli. Il primo era Barbie e bambine, poi abbiamo pensato che alla Mattel non sarebbe molto piaciuto. Secondo era Papà regalami la plastica. Poi abbiamo detto papà, mamma, boh, lasciamo perdere, anche perché in effetti è il papà che paga, la mamma che, insomma, entravamo in discorsi e alla fine sì, appena ho 18 anni mi rifaccio. È un titolo che ha un po' un claim, però sembra simpatico. Bello, mi è piaciuto, ma voglio chiedere subito se piace anche al nostro dottor Francesco Filippi. Buongiorno dottore. Buongiorno. Il dottor Filippi è specialista in chirurgia plastica e responsabile del servizio di chirurgia della casa di cura Montallegro di Genova. Quindi dottor Filippi, con lei approfondiremo il discorso dal punto di vista clinico tecnico. Le piace il titolo del libro di Cristina Tagliabue? Sì, mi piace molto il titolo, ma mi piace molto anche quel poco che si è detto in 2 minuti. Perché ogni caso è da valutare con estrema attenzione. La mail inviata dalla mamma di questa ragazza è molto esplicativa, il percorso è quello giusto, una valutazione psicologica sicuramente per capire veramente il problema, da dove parte, se parte dal seno piccolo o da altre cose. E il ruolo del chirurgo plastico non deve essere solo quello tecnico di consigliare o sconsigliare un intervento, quale tipo di intervento, ma valutare anche lui in seconda battuta tante cose che magari non sono ancora venute fuori. Passerei la parola alla dottoressa Ghigi. Dottoressa, solo 30 anni fa una lettera come quella che abbiamo sentito sarebbe stata quasi impossibile. Ma guardi, innanzitutto non direi che una lettera come questa, o comunque un'esperienza, una situazione come quella descritta dalla mail, sarebbe stata impossibile, perché abbiamo anche nelle riviste degli anni 20 o 30 esempi di lettrici che scrivevano ai periodici dicendo, lamentando alcuni inestetismi e anche chiedendo consiglio sulla possibilità o meno di intervenire chirurgicamente. Noi sappiamo che la chirurgia estetica è molto più antica di quanto non siamo indotti a pensare normalmente. Il punto è che probabilmente sarebbe stata molto rara, cosa che invece non avviene oggi. Oggi siamo portati a pensare che una situazione come quella descritta dalla mail nelle famiglie italiane sia molto comune. E questo io direi in virtù di una serie di cambiamenti che effettivamente si sono avuti soprattutto negli ultimi 40-50 anni, che potremmo riassumere così, diciamo, senz'altro una banalizzazione della chirurgia estetica in termini del suo progressivo ingresso nel linguaggio quotidiano, attraverso i media, attraverso una promozione naturalmente anche sul mercato. Poi potremmo dire anche una progressiva legittimazione medica della bruttezza e dell'intervento sulla bruttezza ha anche legittimato a sua volta l'intervento del bisturi e soprattutto un allargamento a strati nuovi della popolazione. Questo è il punto più importante, strati nuovi non soltanto in termini di classe sociale, ma anche in termini di classe d'età. Mentre all'inizio del secolo la chirurgia estetica era senz'altro indirizzata soprattutto a donne della alta borghesia di media età, oggi vediamo un'esplosione sia per gli strati più bassi della popolazione in termini di classe sociale, sia anche in termini di classe d'età, che è significativa. Per questo siamo indotti a pensare a una maggiore frequenza di esperienze di ragazzine che pensano al bisturi come un momento, a una tappa nel proprio percorso di emancipazione dalla famiglia, come un esercizio della propria autonomia, in questo senso, perché la chirurgia estetica è stata banalizzata. E infatti suona proprio il titolo di Cristina Tagliabue: appena ho 18 anni mi rifaccio. Insomma, adolescenti, giovani donne che sicuramente sono fresche nel pieno della loro bellezza, alle prese con il desiderio di farsi ritoccare, di fare ricorso al bisturi. Una storia, quella della chirurgia, che la dottoressa Ghigi descrive nel suo libro e che scopriamo avere origini antiche e che adesso viene utilizzata anche o sognata anche dalle ragazzine che in teoria del bisturi non avrebbero bisogno. Ne parleremo soprattutto per cercare di capire fino a dove ci si può spingere, quali sono i margini di sicurezza. E adesso ci fermiamo un attimo e poi torniamo subito dopo insieme. Questa casa non è un albergo. Ragazzine assetate di bellezza, pronte a ricorrere al bisturi. Alberto, questo è un po' il tema di oggi. Sì, io penso che lavorando con gli adolescenti, qualsiasi adulto si rende conto che sono davvero abitati e abitate, sia maschi che femmine, da una straordinaria insicurezza, incertezza rispetto al loro successo di crescita, rispetto alla loro bellezza, a come gli altri lì e le vedono, per cui si rimane molto colpiti, perché ci sono anche ragazze bellissime che in realtà hanno come sogno un ritocco dal chirurgo plastico, e a questo punto ci si rende conto che dietro a questa domanda spesso in realtà c'è tutt'altro, c'è un bisogno oggettivo, c'è un bisogno, c'è la loro incapacità di vedersi davanti allo specchio per quello che sono e di continuare a sognarsi diversi per come vorrebbero essere. È chiaro che poi fanno un intervento, si rimettono davanti allo specchio e il problema è rimasto lì, non è andato via con il loro intervento. Per cui vorrei capire dal professor Filippi che cosa realmente un chirurgo plastico fa quando la consultazione viene chiesta da una minorenne che pensa attraverso un intervento di risolvere un problema che forse non è nel corpo ma nella mente. Ma sì, intanto innanzitutto per un chirurgo plastico la cosa più difficile è interpretare bene le aspettative del paziente, che sia un paziente minorenne, giovane o un paziente che attraversa la terza giovinezza, perché ogni momento della vita per mille fattori può comportare in una persona delle insicurezze, dei momenti di difficoltà. E oggi quando sei in difficoltà si va dal chirurgo plastico, è sbagliato questo è sbagliato. Quindi un chirurgo plastico nel momento in cui esegue un intervento, tecnicamente quella è forse la parte più facile. Tra virgolette, la cosa più difficile è veramente interpretare le aspettative di un paziente, perché nel momento in cui non ci si capisce bene poi nascono dei grossi problemi. Per quanto riguarda pazienti molto giovani, sempre vengono accompagnati dai genitori. È importante fare una visita con i genitori, sicuramente, sentire, ascoltare tutti, ma è altrettanto importante, a distanza di una settimana, vedersi da soli con il pazientino, o la pazientina. Generalmente, nella mia personale esperienza, ma la maggior parte degli specialisti che conosco tendono sempre a rimandare non vuol dire non prendere in considerazione, ma avere un percorso, avere più dialoghi con la paziente, e più dialoghi intesi non nel giro di una settimana, 10 giorni, ma più dialoghi nel giro di qualche mese. Allora a quel punto si può innanzitutto valutare bene quello che si muove dentro la paziente, se si muove qualcosa, oltretutto è molto molto importante da parte del paziente avere sicuramente fiducia nel professionista, ma anche da parte del professionista avere fiducia nel paziente, quindi conoscerlo molto bene. Quindi dottor Filippi, nella sua risposta forse intravedo, ma mi corregga, un'indicazione per la nostra mamma, cioè la mamma che alle prese con questa ragazzina che urla e screpita e vuole assolutamente ricorrere alla chirurgia, è andata anche dalla psicologa, ma insomma non hanno trovato delle ragioni buone per abbandonare questo suo desiderio, potrebbe accompagnarla a fare due chiacchiere da un chirurgo competente che possa in qualche modo guidarla in un altro percorso con visite magari ravvicinate, per cercare di magari farla ricredere o scoprire quali sono le ragioni che la spingono a chiedere un intervento. Ma quali, perché le ragazze lo chiedono? Lo chiedo a Cristina, che ha proprio sondato con le sue interviste il suo lavoro, che poi è finito nel libro di cui abbiamo parlato. Che idea ti sei fatta di queste ragazzine? Tu sei giovane, sono molto diverse dalle ragazzine della scorsa generazione, insomma. Ma dunque hanno 20 anni in meno di me comunque, per cui io dico sono la generazione dei Duran Duran, poi ci sono stati Take That e queste sono quelle del Tokyo Hotel, insomma, no? Quindi per parlare di gruppi musicali. Intanto per far vedere che siamo preparati. No, poi una collega del Sole, Giulia Crivelli, mi diceva che anche Naomi Campbell in realtà dice, no, di avere dei problemi con il proprio fondo schiena, nel senso che dice che è grosso, quindi se c'ha dei problemi lei, figuriamoci tutte noi. Io non sono una specialista di medicina, per cui sono semplicemente una narratrice e ascoltatrice, mi sono quindi posta in questo tipo di atteggiamento nel momento in cui sono entrata in contatto con le ragazze, anche alcuni ragazzini e soprattutto le famiglie, perché poi sono le famiglie che ti mettono in contatto con questa realtà e che ti aprono questi mondi. In realtà c'è un po' di vergogna, un po' di pudore, soprattutto nelle famiglie più sobrie, nelle aree del ceto mediamente borghese, diciamo, che comunque si è aperto, no, a questo tipo di possibilità e opportunità. Perché le ragazzine lo fanno? Per mille motivi e nessuno, perché c'è la possibilità di farlo e perché è chiaro, è una banalità, il mondo, l'immagine è fortissima e potentissima, e quindi nel libro un po' l'ho scritto, cioè il corpo è il tuo capitale e a maggior ragione nell'età adolescenziale di più, perché sei più forte, perché sei più bella, perché è veramente lo strumento con il quale ti muovi nella vita. Quindi ho avuto questa impressione proprio della consapevolezza dei ragazzi di avere questo strumento importantissimo, che spesso è più importante addirittura della formazione, del percorso universitario. Il corpo è veramente uno strumento che permette loro di attraversare in velocità certi ambienti ai quali altrimenti non avrebbero mai potuto avere accesso. E allora, siccome quelle che ci stanno o quelli che ci stanno sono fatti così e sono così belli, parlo di quelli di Hollywood, sì, fondamentalmente, non tanto dei modelli televisivi, i modelli sono quelli hollywoodiani, io almeno ho trovato, o musicali, se vogliamo, ecco, allora lì c'è l'accanimento sul singolo pezzo di corpo, diciamo. Dottoressa Ghigi, Cristina ha detto il corpo è il tuo capitale. Però il fatto che il corpo sia un po' uno strumento, una carta con cui accedere e intrecciare magari relazioni, avere una carta in più, non è solo di questi tempi. Nel suo libro lei lo descrive bene. Mi sembra che però rispetto al passato siano cambiati un po' i modelli. Quello che era normale adesso diventa qualche cosa di irraggiungibile. Insomma, sono cambiati un po' i modelli di riferimento? Ma guardi, senz'altro ci sono degli elementi interessanti di continuità e di discontinuità. Nella continuità metterei proprio questo discorso interessantissimo che è stato appunto nominato, dell'idea che il corpo sia un capitale su cui investire. La continuità storica sta nel fatto che quest'idea in realtà la ritroviamo già promossa molto proprio all'inizio del secolo. Faccio un esempio per tutti che cito nel libro: il primo concorso di chirurgia estetica in cui alla persona più brutta veniva dato come premio proprio un rifacimento da un chirurgo è del 1924, promosso dal Daily Mirror. Quindi insomma, si cercava la più bruttina di New York, vero? Esatto, si chiedeva alle ragazze, alle lettrici del giornale di inviare la propria foto, che sarebbe stata mascherata ovviamente per non renderle riconoscibili, e una commissione avrebbe poi decretato quale fosse la più brutta, e il primo premio era appunto una serie di operazioni di chirurgia estetica. Quindi niente di nuovo sotto il sole rispetto anche alle trasmissioni che vediamo oggi. L'elemento, se vogliamo, di discontinuità è, ricollegandomi a quanto dicevo prima, il fatto che questo dovere di bellezza viene oggi presentato come un diritto. Anche la mail che voi avete citato dice: la mia figlia pretende di avere il diritto a questa operazione. Viene presentato come un diritto, e il corpo ideale viene presentato come raggiungibile in qualche modo se ci si dà da fare. È un po' l'ideologia del Me Too che viene allargata anche all'ambito del corpo. L'altro elemento di discontinuità forte è che questo corpo ideale è sempre più scollato, se vogliamo, o lontano dal corpo, chiamiamolo medio, non voglio usare la parola normale, ma diciamo medio nella popolazione. Faccio un esempio anche qui per tutti: c'è uno studio condotto nei primi anni 90 da degli americani che hanno analizzato banalmente il peso medio delle modelle femminili di Playboy e delle candidate al titolo di Miss America dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 80. E cosa hanno visto? Non semplicemente, come possiamo immaginare, che questo peso medio è andato diminuendo, cioè l'ideale di bellezza è andata promuovendo dei corpi più longilinei, più magri, eccetera, ma il fatto che questo peso medio è calcolato nella percentuale del peso della popolazione femminile di quell'anno, di quel periodo, è sempre andato diminuendo, calcolato in percentuale. Cosa significa? Che banalmente le modelle presentate sono sempre più magre, non soltanto in assoluto, ma anche in relazione alla media della popolazione. Ora, questi ideali sempre più stretti, sempre più difficili da raggiungere, vengono presentati anche alle ragazzine come ideali sempre più facili da raggiungere, anche se non lo sono. Infatti, con la buona volontà, con i prodotti giusti e anche con i bisturi. Dottor Filippi. Allora, il trend sicuramente nell'età giovanile è in aumento, ma il vero problema, ad esempio, noi siamo partiti parlando del seno, no? Il seno è un problema relativo. Il problema vero è quando io vedo arrivare in studio ragazzine di 16, 17, 15, 18 anni assolutamente sovrappeso, entrano: dottore, mi faccio una liposuzione? Assolutamente no, bisogna cambiare tipo di alimentazione, bisogna fare attività fisica, bisogna amarsi un po' di più. Ecco, spiegare queste cose, mi rendo conto, ed è lì il problema vero, non serve. Le ragazzine sono convinte di venire dal chirurgo plastico, farsi, mi scusi l'espressione, aspirare, con poi dei problemi di alimentazione ed educazione in casa, cioè bambine che si mangiano 200 briochine, che hanno un'alimentazione assolutamente sregolata. È lì dove il problema è in casa, non tanto sul seno. La mail che abbiamo ricevuto prima, questa ragazzina non aveva un grosso problema, cioè non era un problema malformativo, è un problema che sicuramente a 20 anni, 21, 22, prima o poi il seno se lo rifà, no? Sì. Parlandoci. Il problema vero è quando vengono pazienti dal chirurgo plastico per risolvere con la chirurgia plastica problemi che non si risolvono con la chirurgia plastica, certo, ma non solo da un punto di vista psicologico, proprio da un punto di vista alimentare, di educazione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ringrazio la dottoressa Ghigi per essere stata con noi, il dottor Filippi, grazie, buona giornata a voi. Grazie. Grazie, buona giornata. E ora è il momento di andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e autostrade, poi veloci, veloci, torniamo qui insieme. Questa casa non è un albergo. E da questo sabato, nell'ultima parte della trasmissione, vogliamo invitarvi a fare qualcosa di bello e di concreto, di pratico, si direbbe, Alberto, con i vostri figli. Alberto gli direbbe che questo è un progetto educativo. Certo, perché per tutto l'anno noi genitori ci lamentiamo che non abbiamo mai tempo, i figli hanno bisogno di un sacco di attenzione, di fare le cose insieme con noi, ma noi abbiamo il lavoro, la spesa, gli impegni, insomma, non ci riusciamo mai. Adesso è agosto, abbiamo tempo da vendere, come si suol dire, perché non lo usiamo per fare qualcosa di speciale insieme ai nostri figli? Per questo motivo ci siamo inventati l'idea di prendervi per mano e insieme ad un esperto ogni sabato darvi consigli pratici per fare delle cose che siano belle per voi e per loro, e vivendole insieme probabilmente per rinforzare la relazione genitori-figli. Allora, in linea con noi abbiamo il dottor Stefano Zuffi, che è già venuto in trasmissione a grande richiesta, torna a trovarci. Buongiorno. Addirittura grande richiesta. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, critico d'arte, autore del libro Il mondo dipinto, 22 capolavori di grandi maestri raccontano la loro storia. Allora, sì, a grande richiesta, ma con un compito difficilissimo. Perché dobbiamo portare in gita ad agosto i nostri figli nelle roventi città d'arte, poveri loro, ma anche poveri noi. Lei sicuramente è l'unica nostra salvezza, quindi si sente investito di questa grande responsabilità. Sì, ma lo faccio volentieri, dovendo, ahimè, entrare subito in piccola contraddizione con quello che diceva prima Alberto Pellai. La cosa importante, secondo me, è partire dal presupposto che non si sta facendo qualche cosa di speciale, di particolare, di insolito, di circoscritto in un momento assolutamente particolare dell'anno, assolutamente no. Io credo che l'idea di andare a vedere insieme ai nostri figli qualcosa di bello, che può durare un'intera giornata, che può durare una mezza giornata, che può durare anche solo un'ora, dovrebbe essere in teoria presentata come una cosa normale, non come un fatto irripetibile ed eccezionale. È difficile, lo so, è molto difficile, però questa è una percezione che altrimenti rischiamo di trascinarci dietro tutta la vita, e cioè che il bello sia limitato al tempo libero, anzi a quando si ha talmente tanto tempo libero che non si sa più che cosa fare, e allora presi dalla disperazione andiamo a vedere un museo. Questo non mi sembra proprio particolarmente pedagogico. Ecco. Alberto sta incassando, ma no, vedo mi dispiace. No, però in effetti lei ci porta lontano, dottor Zuffi, proprio cambiare la mentalità, che è un po' quella, non per salvare Alberto, che è quella che ci hanno un po' inculcato i nostri genitori. Cioè noi forse trasferiamo quest'idea, no, del museo, di qualche cosa, del bello come qualche cosa di faticoso, che è perché a noi, devo dire, l'hanno un po' passata così, per cui l'associazione belle arti uguale patimento è un'associazione, diciamo, è un retaggio ottocentesco addirittura, che ha dato degli effetti, per esempio, negli allestimenti dei musei. I musei italiani sono quasi sempre privi di poltrone o di divani o di luoghi dove ci si debba sedere, perché c'è una specie di, come dire, di percorso sacrale, sacralizzante, in cui anche il patimento del visitatore fa parte, come una specie, non so, di godimento vagamente masochistico, per cui bisogna soffrire e allora si è più contenti. Ma insomma, ecco, noi non vogliamo soffrire, vogliamo stare bene, appunto. E l'occasione in Italia ce ne sono davvero tante. Andiamo lungo lo stivale? Pronti. Allora, da che cosa iniziamo? Dall'alto o iniziamo da dove vogliamo partire? La bellezza è che si può partire praticamente da qualunque punto d'Italia, da qualunque spiaggia, da qualunque campagna, da qualunque montagna. A tiro di schioppo c'è sempre qualche cosa di bello da andare a vedere, e questa è una risorsa straordinaria, eccezionale, una cosa di cui essere anche, beh, insomma, un po' orgogliosi, via, possiamo dirlo. Orgogliosissimi, direi. Quindi adesso, naturalmente, nei limiti di tempo della trasmissione magari daremo qualche consiglio un po' spot, però con un po' di fantasia e con una minimo di una carta geografica si trova sempre qualcosa di bello. Forse vale la pena di partire dall'alternativa storica a Gardaland, perché non lontano dall'attuale Gardaland c'è Mantova, e Mantova è la città, è una città meravigliosa, tutta Mantova, tutta insieme, da visitare. Sì, anche magari dotandosi di un flacone di Autan contro le zanzare, però a parte quello è una città di un fascino assolutamente unico, e fascino nel fascino possiede questa specie di grande luogo dei divertimenti della corte dei Gonzaga, che è Palazzo Te. Palazzo Te che offre tra l'altro il piacere della frescura, perché ci si sta benissimo anche nei giorni più caldi dell'anno, è tutto un susseguirsi di meraviglie, di suggestioni, di sale sorprendenti, di trovate prospettiche, di affreschi che devono suscitare emozione, spavento, sgomento. È insomma veramente stato concepito negli anni 20 e 30 del Cinquecento come una specie di parco dei divertimenti, e può essere visto davvero così, insomma. Qui ci porto subito Alberto, che così sai si... che io ho da parte di mamma origine mantovana, quindi Mantova la conosco benissimo, dove si mangia bene, e l'ho visitata molto anche da bambino. Beh, esatto. Muoviamoci un po' da nord a sud nei minuti che ci restano a disposizione. Ci dia proprio un po' a spot idee per educare al bello, grazie ad una visita, una gita che diventerà non più solo festiva ma anche feriale ai nostri figli. Ci sono tante passeggiate che si possono fare, per esempio la passeggiata fra le rovine di Aquileia, per chi va al mare lungo la costa friulana è vicinissima ed è un altro luogo di purissimo incanto, di interni e di esterni, di mosaici e di ruderi, di cipressi e di emozioni. Poi miracolo per miracolo il campo dei miracoli di Pisa, mica solo per la torre pendente, che comunque è uno di quegli oggetti che sono immediatamente percepiti e riconosciuti, e serve molto questo. Questo dà soddisfazione ai bambini, perché questo l'ho visto, anche se l'hanno visto per la prima volta, no, dal vero, e questo li fa già subito sentire, l'ho visto nel mio sussidiario, sì, questo funziona sempre, quindi... È vero, quindi il campo dei miracoli a Pisa, partendo magari dall'esca data dalla torre pendente, questi quattro monumenti niveo de marmore, come è scritto su una lapide, sono una delle cose più emozionanti, che sorgono poi dal prato, insomma, sono una delle cose più emozionanti e più vicine alle spiagge che si possano immaginare. Poi, rimanendo in tema di passeggiate tra architettura e verde, i templi di Pestum, per chi si trova per esempio lungo la costa del Cilento oppure nella costiera amalfitana e così via, i templi di Pestum sono un'alternativa a Pompei, a Ercolano, ma un'alternativa veramente straordinaria, perché sono i templi greci meglio conservati di tutto il mondo greco. E quindi l'insieme di questi tre grandi complessi accolonnati in mezzo agli oleandri, in mezzo al verde della piana di Pestum, è davvero indimenticabile. Per chi invece è sulla parte adriatica, magari verso il Gargano, insomma in Puglia, perché non andare a dare un'occhiata a Castel del Monte, questo castello costruito da Federico II, dal grande imperatore tedesco, ma nato in Italia e appassionato dell'Italia, e questo castello perfettamente conservato, dalla forma così suggestiva, ottagonale, con queste otto torri sfaccettate, insomma, senz'altro ha tutto quel fascino del Medioevo fantastico, che insomma adesso i nostri ragazzi vedono trasposto nelle favole di Harry Potter, ma che ha un suo fondamento ben riconoscibile proprio nei monumenti italiani. Per chi è in Sicilia, Sicilia è difficile scegliere. Lui, perché ci si perde. Ha piene mani tutte le bellezze che il mondo e la natura può dare, però non dimenticherei un posto un po' stravagante che è la villa romana di Piazza Armerina. Questa villa tardo-romana, insomma una delle ultime grandi ville imperiali, ha conservato alla perfezione questi sterminati mosaici pavimentali con colori vivacissimi, con scene molto accattivanti di tutti i generi, dalla cattura degli animali esotici alle ragazze in due pezzi che giocano a palla, e davvero è una passeggiata anche questa che dà sicuramente soddisfazione a chiunque la faccia, in sostanza, a qualunque età, non ha una fascia di età di riferimento, è puramente bella e bisogna godere. E ciascuno se la gode con i suoi occhi e con la sua età. Senta, dottore, io farei un salto in Val d'Aosta, perché magari, insomma, in montagna passeggiate, però magari può venire anche brutto tempo, oppure si rannuvola, uno è stanco perché ha fatto, si è arrampicato troppo. Cerchiamo qualcosa anche per chi ha scelto la montagna. Beh, la Val d'Aosta notoriamente è una zona di castelli molto molto belli, alcuni anche celebri, il castello di Fenis per esempio, quello di Verres, però ce n'è uno che forse vale la pena di segnalare perché è stato riaperto solo da un paio d'anni, dopo lunghi lunghi lavori di restauro che hanno dato anche degli effetti molto molto particolari, per esempio con delle ascensori panoramiche scavate nella roccia ma con una parete vetrata che ha proprio un effetto molto suggestivo, che è il forte di Bard. Il forte di Bard è un forte ricostruito in età napoleonica all'inizio dell'Ottocento, è un grandioso complesso architettonico formato da diversi corpi di fabbrica che si abbarbicano lungo la montagna, collegati tra loro da camminamenti, passaggi, e insomma possono inventare anche tante storie camminando, non c'è dubbio. Cosa le devo dire? Che mi piacerebbe raggiungere lei e tutti la sua famiglia per fare una gita con lei, sicuramente, Alberto, sarebbe magnifico. Io porto in valigia. Ma ci faremo invitare, intanto io ho preso appunti, speriamo di sentirla prestissimo. Sentieri, certamente. Buona giornata e buone vacanze. Altrettanto a voi e ai vostri figli. Grazie. E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento per il prossimo sabato, Alberto. Avremo ancora un sacco di consigli, di idee da discutere con voi. Intanto mi raccomando, tu in gita. Va bene. Con un'altra testa. Buona giornata a tutti.